Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Tu sai sciare? Io sì. Sì, però mi avevano detto che eri a Sochi con il quartetto Bob di magari, Bergamo Alta. Magari. Solo sci no. Invece? No, io sono sci e non sono alle Olimpiadi Invernali. Di questo invece parleremo adesso, i titoli e poi appunto tecnologia e scienza nello sport invernale. La scienza e la tecnologia a Sochi 2014. L'innovazione fuori e dentro il corpo degli atleti. Istruzione per far funzionare un reattore a fusione calda. Ce lo spiegano quelli di ITER. Assistenza ospedaliera tra cucina e salotto. È possibile trasferire l'ospedale tra le mura domestiche. Eccoci qua. Si sono aperti proprio in queste ore i giochi invernali a Sochi 2014 e allora abbiamo pensato di parlare un po' della tecnologia, come diciamo nei titoli, che sta dentro e fuori l'atleta, perché ovviamente è importante studiare la fisiologia, il corpo, quando fa sport, certo, in movimento, ma senz'altro, lo sappiamo benissimo, in alcuni sport è fondamentale la strumentazione. Ormai è diventata quasi, in alcuni casi addirittura, il fattore preponderante, almeno adesso cercheremo di capirlo, ma mi pare proprio di sì. Chi sono i adesso lo i diremo, ospiti? Insomma, abbiamo deciso di dedicare buona parte della puntata a questo tema e allora introduciamo i nostri ospiti. Diamo il benvenuto a Nunzio Lanotte, buonasera. Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Buonasera. Lei è ingegnere, fondatore di UpLab, che è un laboratorio di ingegneria specializzato in tecnologia per lo sport, è consulente del CONI e anche autore di un libro che abbiamo qui davanti, Sportivi ad alta tecnologia, edito da Zanichelli, e adesso ne parleremo ampiamente. E poi diamo anche il benvenuto a Maurizio Aiello, buonasera. E buonasera, è sempre un piacere. È tecnologo dell'Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Comunicazioni del CNR di Genova. Con lei spazieremo un po' su quelle che sono le tecnologie, soprattutto per la misurazione di queste velocità, di tutti quei parametri che rendono poi possibile il risultato, il record, l'assegnazione del premio, certo, di un atleta. Direi di forse partire con la notte, che dice Federico. Sì. Tanta parte di questi giochi la fa lo sci, diciamo che è un po' la disciplina maestra, poi entreremo magari nel dettaglio anche del pattinaggio, del bob, se vuoi parliamo anche di curling. Però insomma, ma c'è un sacco di fisica nel curling, però cominciamo lo dallo sci, è dai. Assolutamente, come dire, lo sport un po' imperatore. Sì. E lei la notte ha dedicato un intero capitolo del suo libro a questo. Ci introduca un po' quelle che sono le tecnologie legate a questo sport. Lei racconta di un caso drammatico di errore, no? Con un grande campione che sbaglia qualcosa. Errore di sciolina. Sì, alle Olimpiadi di Nagano e un grande campione norvegese che si chiama Bjørn Dæhlie e che ha vinto 8 medaglie d'oro, una specie un po' il Phelps dello sci di fondo. C'era la gara sulla 30 km. Poco prima della gara ci fu una nevicata, mezzo metro di neve fresca che coprì il percorso, quindi cambiando completamente le condizioni della pista. Niente, si riunirono, non sapevano che pesci prendere, perché le scioline sono fortemente dipendenti dalle condizioni della pista, cioè più o meno molle, più o meno certo, è quella la neve variabile, marinosa, la neve ghiacciata e poi la temperatura che c'è, l'insolazione, tutto quanto sono dei parametri che condizionano la scelta della sciolina. Lì si presenta una situazione un po' inedita, non sapevano. Si riuniscono la squadra norvegese, che poi è una specie del Brasile del calcio, cioè la squadra più importante nello sci di fondo, giocano ben 17 skimen, che sono quelli che preparano le scioline, quindi fanno una specie di assemblea. Un conclave sulla sciolina? Un conclave sulla sciolina, alla fine si mette ai voti, gli passano questa sciolina, danno gli sci a Dæhlie, dicono va e vinci. E quello poveretto arriva trentesimo, no. E alla fine della gara ha praticamente 2 centimetri di ghiaccio sotto gli sci. Certo, ma la differenza allora tra un grande campione, no, che sbaglia la sciolina è impressionante, non è che arriva terzo, arriva trentesimo. Questo è un caso limite, ovviamente, infatti per questo ne parlo nel libro, perché non è sempre così determinante la sciolina, però può succedere. Dæhlie poi nei 3 giorni successivi vince 3 medaglie d'oro, quindi stava al massimo della forma. Però un errore tecnico, naturalmente, sciare con 2 centimetri di ghiaccio sotto lo sci è molto complicato. La notte cos'è tecnicamente la sciolina? Cos'è questa sciolina? Ma la sciolina pallina è una sostanza che si mette sul fondo dello sci e praticamente la sua funzione è quella di modificare l'interfaccia tra lo sci e la neve. Nello sci da discesa deve ridurre l'attrito. Nello sci di fondo ci sono due tipi, la sciolina di scorrimento e la sciolina di tenuta. Quella di tenuta serve per quando uno deve fare per esempio delle piccole salite a non scivolare all'indietro. Ma cosa sono? Cere? Si presenta in vari tipi di forma, cioè c'è come una cera, c'è liquida e c'è anche spray. E c'è anche sono spray. Sono vari tipi di sostanze, generalmente sono di base sono degli idrocarburi, cioè delle sostanze formate da carbonio e idrogeno. Una sciolina può arrivare a contenere 20 tipi di idrocarburi diversi miscelati, proprio perché dicevo a seconda delle condizioni cambia molto. Senta Aiello, vorremmo chiedere a lei, adesso restando appunto sullo sci, ormai quando arrivano giù per esempio nella libera, no, le differenze sono di centesimi, millesimi di secondo, si riesce effettivamente ad avere attendibilità nella misurazione? Ah, guardi, parlando di queste misurazioni di cui lei mi sta proponendo, quelle misurazioni molto classiche, cioè misurazioni di tempi, assolutamente sì, nel senso che la tecnologia oramai nel campo cronologico, quindi della misurazione del tempo, è estremamente consolidata. Diciamo, in questo caso, come sapete, si utilizzano tantissimo la tecnologia delle fotocellule. Fotocellule, che misurano sì. La punta dello sci. Misurano a seconda di dove sono posizionati. Sì, poi, certo. Perché l'applicazione, diciamo, della fotocellula al campo sportivo ovviamente varia a seconda dello sport, però concettualmente la base è che viene trasmesso un raggio luminoso o meno, può anche essere un raggio non luminoso, da una parte all'altra di un determinato campo di gara. Nel momento in cui questo fascio luminoso viene interrotto, significa che lì è passato il... Ci sono anche dei rilevatori, non so, delle piattaforme cosiddette inerziali che vengono messe nel corpo dell'atleta o nello scarpone? Beh, guardi, in realtà adesso ci possiamo sbizzarrire, nel senso che le possibilità offerte dalle nuove tecnologie sono assolutamente varie. Ad esempio, negli scarponi si può utilizzare la tecnologia RFID, cioè la tecnologia di campo vicino indotto. Con la tecnologia RFID è quella che viene utilizzata normalmente quando voi andate ad aprire un cancello o una porta per avere accesso al posto di lavoro. Voi sapete che viene data una tesserina, questa tesserina sì. È completamente senza batteria, ma nel momento in cui la avvicinate al sensore, magicamente si apre certo. Praticamente la porta. Ecco, qual è il funzionamento di quelli che sta dietro questa tecnologia? All'interno di queste schedine ci sono dei circuiti elettronici che non sono alimentati. Ma con questi chip messi a bordo, cioè... Che informazioni ci danno? Che informazioni? Quello che le dicevo, siccome si basano proprio sulla prossimità e quindi si basano sul fatto che per essere accesi devono essere vicini a un determinato punto, ecco che se noi andiamo a stendere su una pista di pattinaggio una striscia, diciamo, sensore elettromagnetico che è in grado di mandare questo campo elettromagnetico e solo nel momento in cui il pattinatore passa esattamente in quel punto, sì. Ecco che mi viene data un'informazione molto precisa sull'istante in cui il pattinatore passa e sul punto preciso in cui questo pattinatore passa. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Stiamo parlando di scienze e tecnologie nelle specialità sì. Invernali, visto che ci sono i giochi olimpici di Sochi. Avevamo lasciato torniamo Maurizio sulle piste, sì. Aiello, tecnologo del CNR a Genova. Aiello, lei ci stava dicendo che si possono mettere sensori sia sul corpo che per esempio sugli scarponi per quanto riguarda lo sci, oppure per quelli che fanno pattinaggio su ghiaccio. Ecco, ma che tipo di informazioni possiamo trarre da queste cose? Cioè, a che cosa serve, insomma, misurare tutti questi aspetti diversi della posizione del corpo, velocità, attriti? Diciamo che lo scopo è sicuramente duplice. Da un certo punto di vista possiamo fornire delle informazioni che sicuramente sono vitali per i team, per capire quindi perché un certo Bob, ad esempio, o un certo pattinatore ha perso dei millisecondi preziosi e questo gli ha fatto perdere la gara. Quindi sicuramente informazioni utili per i team. D'altra parte è anche vero che questo consente al telespettatore di avere un'esperienza più immersiva all'interno dello sport e quindi di fatto di divertirsi di più. Vi potete certamente pensare alle gare della MotoGP in cui è molto bello vedere l'orizzonte completamente piatto e vedere l'inclinazione della moto. a livelli estremi. Ah, sta pensando a quello. E dopodiché collegare quindi anche questa informazione con il fatto lì era inclinato con questa determinata gradazione e la ruota non ha tenuto e hai perso tempo eccetera. Queste cose ovviamente verranno riprodotte ad esempio. Quando vediamo che un patinatore fa un tombolone capiamo perché si è inclinato. Capiamo perché. Lo vediamo, certo. E poi inoltre possiamo anche trasmettere le immagini video, quindi possiamo trasmettere contemporaneamente, sto pensando al Bob in questo caso, mettendo la videocamera collegata con il trasferimento wireless, possiamo trasmettere immediatamente il video e quindi rendere il telespettatore ancora più partecipe dell'evento. E poi ovviamente tutto utilizzabile nell'ambito dell'allenamento per rivedersi, diciamo, per capire rivedere cosa è gli successo. Errori, certamente. No. Ecco, è sempre con noi l'ingegner Nunzio Lanotte, che è appunto autore di Sportivi ad Alta Tecnologia. Io mi sono letta con molto piacere tutto il capitolo legato agli sci, nel senso che gli sci sono un ritrovato di tecnologia pazzesca, per cui certe volte si pensa che un po' la forma dello sci dipenda anche dalla moda, invece cioè lo sci sciancrato, lo sci da carne, sì. Ecco. Invece ho scoperto che è tutta una questione di attrito, di curva. Certo, sì. Intanto va detto, lo sci è uno strumento molto complesso, perché sembra una semplice tavola, una volta era fatta di legno, adesso è fatta con una struttura, come si dice, a sandwich, cioè sono vari strati di vari materiali diversi. Il legno non c'è più? Il legno c'è un nocciolo che è in legno, e generalmente adesso si cominciano a usare anche materiali diversi, però prevale ancora, tra l'altro è uno dei pochi casi in cui ancora il legno, che una volta molte attrezzature sportive erano fatte di legno, basti pensare alle racchette, adesso il legno è stato quasi soppiantato da tutte le superleghe di varie carbonio, prevalentemente dalla fibra di carbonio. Però invece nello sci c'è ancora generalmente un nocciolo, un core di legno all'interno dello sci, però poi ci stanno tanti altri materiali, delle leghe di alluminio, le lamine naturalmente sono fatte con un acciaio molto duro e il fondo è fatto con un polimero, eccetera. E quindi insomma, perché lo sci rappresenta l'interfaccia tra l'atleta e la neve, e se uno fa un paragone con la bicicletta, per esempio, lo sci deve svolgere tutti i compiti che in una bicicletta sono svolti da 4-5 apparati diversi, dalla gomma, cioè? La gomma, l'ammortizzatore, tutte queste cose. Nella bicicletta li fanno pezzi, attrezzature diverse, nello sci lo fa lo sci. Fa tutto lo sci. Ammortizzatore, lo sci. Lei dice anche, in che senso? Siamo spontaneamente portati a pensare che sia qualcosa, l'ammortizzatore nello sci è la coscia dello sciatore. Certo, c'è anche la coscia dello sciatore, cioè principalmente la coscia dello sciatore, però il discorso quando uno sciatore fa un salto poi riatterra, c'è tutto anche un discorso di vibrazioni di cui bisogna tenere conto, per questo è così complesso, si usano tanti materiali. E un altro aspetto appunto è il fatto che da qualche anno, ormai da quasi una ventina d'anni a questa parte, lo sci non è più dritto come una volta erano sci molto dritti e molto lunghi, adesso sono cosiddetti sciancrati, sono sinuosi. Significa che il fianco, invece di essere dritto, ha un raggio di curvatura che poi varia a seconda delle specialità che uno... A cosa serve? Diciamo, quando uno deve fare le curve, il raggio di curvatura dello sci in qualche modo approssima il raggio di curvatura della curva che uno sta facendo e permette... Di sciare riducendo molto il meccanismo della derapata, cioè la derapata è uno spostamento trasversale rispetto alla direzione del moto. E in questo modo, con lo sci sciancrato, questa derapata viene molto ridotta. Del resto, se i nostri ascoltatori sciano anche diciamo a livello amatoriale, hanno fatto l'esperienza che con questi sci curvi si curva molto meglio. Maurizio Aiello, negli sport invernali, come in tantissimi altri, c'è sempre questa importante misurazione della velocità, anche quando non è quello il punto, l'importante è arrivare primo. Per esempio col Bob, com'è che si misura con questa estrema precisione la velocità, per esempio, di un Bob che viene giù in una pista di ghiaccio? Ma guardi, le tecnologie per misurare la velocità sono svariate e molteplici. Certamente la più semplice è quella a cui accennavamo prima, cioè l'utilizzo di cellule in qualche modo che siano in grado di rilevare l'interruzione di un fascio di onde elettromagnetiche da una parte all'altra. Questa è una misurazione estremamente precisa, ma che, come puoi immaginare, avviene in un punto preciso. Possiamo pensare di seminare di cellule un'intera pista di bob piuttosto che un qualsiasi altro campo di gara. Allora, quando invece vogliamo avere una misurazione della velocità in un qualsiasi punto del circuito, allora possiamo tranquillamente utilizzare quella che è la tecnologia nota, purtroppo, per fortuna, della tecnologia dell'autovelox. L'autovelox purtroppo perché ci dà le multe. Per fortuna, perché naturalmente è una tecnologia assolutamente utile e fondamentale per la salvezza di molte vite umane. E allora in questo caso noi mandiamo sempre un'onda elettromagnetica, tipicamente un raggio laser, contro il dispositivo che sta sopraggiungendo verso di noi, può essere una macchina, può essere anche un bob. L'onda di ritorno è in qualche modo, grazie all'effetto Doppler, in grado di darci una misurazione estremamente precisa della velocità. E questo avviene in più punti della pista ed è per questo che noi sentiamo la velocità nel primo quarto, nel secondo quarto, nel terzo quarto, è per quello che arrivano tutti questi dati. Se noi parliamo solamente di quarti, parliamo di misurazioni estremamente puntuali, cioè punti precisi, e lì si possono utilizzare tranquillamente le cellule fotoelettriche e in quel caso si parla di velocità media. Se noi invece abbiamo una velocità istantanea visualizzata sul monitor della televisione, allora in quel caso dobbiamo o utilizzare gli autovelox oppure possiamo anche fare dei calcoli indiretti utilizzando la tecnologia GPS. Con un errore che ha sempre, però che verrà corretto. Con un errore che è certamente più grande, perché il GPS non è così preciso, non è in grado di darmi una posizione estremamente precisa al millimetro, ma ha un errore più ampio, che può essere dell'ordine della decina di centimetri. Quindi abbiamo un pochino di errore, ma siamo assolutamente in grado di stabilire in ogni istante qual è la velocità del bob o dell'automobile. Questi dati sono senz'altro utili per quello che dicevamo, l'analisi post-gara dal punto di vista degli allenatori, del team, della squadra. E esistono dei software, la notte lei li descrive nel suo libro, si chiamano software per l'analisi biomeccanica, nel senso che esistono dei programmi che permettono in qualche modo di sovrapporre le immagini, ad esempio, di due sciatori di due squadre diverse nello stesso istante, nello stesso punto percorso, per vedere appunto se chi ha commesso errori, perché uno è più avanti, che posizione ha, eccetera, eccetera, e quindi correggersi. È così, ce ne sono tanti di questi programmi, alcuni sono anche italiani. Sì, ci sono molti, diciamo, questi programmi vengono utilizzati sempre più nell'ambito dello sport, specialmente nello sport di alto livello, in tantissime discipline, tra cui lo sci, ma non solo, basta pensare, non so, la ginnastica, i tuffi, in tutti gli sport in cui il movimento, l'accuratezza del movimento è fondamentale, sono molto utilizzati. Ce ne sono di varie provenienze, anche in Italia ce ne sono di molto buoni. Possono fare una serie di cose molto interessanti, per esempio, come diceva lei prima, si può sovrapporre il video di due sciatori che fanno lo stesso percorso, per esempio immaginate una discesa libera, la telecamera che li riprende è sempre quella, quindi l'unica cosa che cambia è la posizione dello sciatore, quindi si sovrappongono e si vede appunto in ogni passaggio della pista, in ogni passaggio della gara, quello che hanno fatto i due, e eventualmente se uno si è avvantaggiato, ha fatto la curva meglio, ha fatto un salto più lungo, eccetera. Però non è solo questo, si possono fare per esempio un effetto stroboscopico per cui si visualizza tutta la traiettoria, in una sola immagine si visualizza tutta la traiettoria dello sciatore dall'inizio alla fine, o perlomeno in un lungo tratto di pista. E poi soprattutto si possono importare dati numerici acquisiti con dei sensori, per esempio delle piattaforme inerziali come quelle di cui parlava Maurizio prima, e quindi non solo si vede il video dello sciatore, ma lì in ogni momento si visualizza sullo schermo anche la sua accelerazione, la sua velocità angolare, eccetera. Quindi sono strumenti che a saperli usare bene sono molto, molto potenti e molto versatili. Utili, insomma. Ecco, la notte mi piacerebbe ricordare, siamo in conclusione, lei è anche consulente del CONI, che il team che parteciperà col Bob a queste Olimpiadi è stato creato in collaborazione con il team. È arrossato, nel senso che è in collaborazione con il team Ferrari, nel senso che tutti gli strumenti sono stati provati nella Galleria del Vento di Maranello. Sì, il CONI con la Ferrari ha una specie di accordo quadro, quindi non è solo nel Bob che collaborano, ma anche in tante altre cose, per esempio nella canoa e in altre discipline. È chiaro che nel Bob l'expertise della Ferrari, che insomma sono tra i più grandi o i più grandi esperti al mondo di aerodinamica dei veicoli, può fare molto comodo, perché alla fine il Bob, se non è perfettamente aerodinamico, certamente perde qualcosa. Quindi si studia nella Galleria del Vento con gli stessi strumenti che si usano per studiare gli alettoni delle macchine di Formula 1. Certamente è molto utile come collaborazione. Bene, allora concludiamo con un grandissimo, ovviamente, in bocca al lupo agli atleti italiani in gara, e vi salutiamo, buona serata, la notte, buona serata Aiello, grazie. Buona serata a voi. Arrivederci, buon lavoro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Andiamo a Padova per parlare di fusione calda, e l'ospite per parlare di tutto ciò è Francesco Gnesotto. Buonasera Gnesotto. Buonasera, buonasera. Lei è presidente del consorzio RFX, ci sciolga la sigla. Sì, è una sigla un po' complicata, significa Reverse Field Experiment, un esperimento appunto di fusione a campo magnetico rovescio. Ah, qui stiamo già mettendo i piedi nel gergale molto, tecnico, però insomma vuol dire che lavorate sulla fusione, fusione calda. Dunque, siamo a Padova perché lì si è aperto un nuovo laboratorio con le più importanti istituzioni di ricerca italiane, c'è il CNR, no? C'è l'INFN, ci sono anche aziende. Sì, c'è il CNR, l'INFN, l'ENEA, l'Università di Padova. L'Università di Padova, certo. E un'azienda privata, Acerie Venete. Allora, dobbiamo parlare di fusione calda. In questo laboratorio si metterà a punto uno dei pezzi, diciamo, tra virgolette, fondamentali per riuscire a risolvere questa grande tecnologia che avrebbe un impatto impressionante. E che cos'è esattamente? Su che cosa lavorerete voi? Sì, il laboratorio è già stato realizzato nell'area della ricerca del CNR di Padova. Mm-hmm. Un laboratorio di grandi dimensioni, siamo sull'ordine dei 20.000 metri quadri. Mm. In questo laboratorio verrà installato il prototipo del iniettore di fasci di neutri per il reattore ITER. Mm. Questo iniettore è il più importante sistema di riscaldamento del plasma, di ITER. Le produco un'immagine un po' divertente. Quando si parla di questo plasma, di questo gas plasma, a me viene sempre in mente quei fantasmini verdi che ci sono in Ghostbuster, a presente, che galleggiano lì al centro del corridoio. In Ghostbuster bisogna eliminarli, voi invece il fantasmino dovete riuscire a tenerlo il più possibile in galleggiamento. Lì c'è tutto un lavoro estremamente complicato di campi magnetici che cercano di contenerlo. Il problema principale è che appunto questo fantasmino non si riesce a contenerlo facilmente, e soprattutto bisogna che non si mangi più energia di quanta invece gli chiediamo di darci, no? Questo è il problema. L'energia non viene mangiata da questi fantasmini, ma viene perduta, verso la parete esterna, con anche dei problemi di carico termico evidenti. Ecco, quindi c'è un problema di confinamento, noi lo chiamiamo, cioè mm-hmm. la possibilità di tenere questa miscela caldissima, parliamo di 150 milioni di gradi, lontana dalle pareti del contenitore, e c'è il problema del riscaldamento. Appunto, noi qui a Padova affrontiamo il problema del riscaldamento attraverso il iniettore di fasci neutri. Perché praticamente dovete riscaldarla molto, perché vogliamo ottenere energia, ma naturalmente riscaldandola si amplificano i problemi di contenimento anche, insomma c'è una contraddizione che deve essere risolta. Credo che sia abbastanza normale. Nei sistemi fisici diventano più instabili all'aumentare dell'energia interna e quindi della temperatura. Noi per ottenere le reazioni di fusione e quindi ottenere molta più energia di quanto spendiamo per mantenere attiva la reazione, dobbiamo riscaldare questa miscela che noi chiamiamo plasma, che vuol dire semplicemente particelle elettricamente cariche, cioè che hanno perso i loro elettroni e quindi diventano cariche positive e cariche negative. Il tutto avviene in una ciambellona a cava e poi il procedimento per produrre energia è molto semplice, perché lì ci sarà dell'acqua che poi ci gira intorno, si crea vapore, questo vapore va sulle turbine, ma lì si rientra in una, come dire, in una fisica e un'ingegneria consolidata. Esatto. Sì, sì, il problema è avere questa grande energia, e sarà bene anche ricordare a Gnesotto che poi la materia che si utilizza per ottenere, si utilizzerà per ottenere questa energia, è veramente, se la confrontiamo con le tonnellate di uranio di una centrale appunto nucleare, irrisoria. All'interno del reattore vi sarà una miscela di deuterio e di trizio. Il deuterio è un isotopo dell'idrogeno che si trova abbondantissimo nell'acqua, in qualsiasi tipo di acqua, sia dolce, certo, sia salata del mare, e non è radioattivo. L'altro materiale è il trizio, che invece è radioattivo, ma sarà all'interno del reattore in quantità di alcune decine di grammi. E comunque la cosa importante è che viene prodotto all'interno del reattore, quindi senza nessuna, nessuna necessità di trasportarlo dall'esterno verso la centrale. Con livelli di radioattività appunto bassissimi, insomma, rispetto a... Sì, anche nel peggiore degli incidenti, ad esempio il classico caso del grande aereo che cade sulla centrale, un disastro, anziché la dispersione di decine o centinaia di tonnellate di materiale radioattivo come l'uranio, avremmo la dispersione di 10, 20, 30 grammi di trizio, quindi una quantità di radioattività estremamente inferiore. Insomma, questo è un grande scenario. Inoltre, il problema delle scorie non esiste, in quanto il prodotto della fusione è elio. Elio è un gas non radioattivo che si può tranquillamente rimettere in atmosfera oppure utilizzare per tanti usi tecnologici. Serve per ridere un po', no? Per i palloncini. Senta Gnesotto, adesso rapidamente le faccio un po' di domande. Allora, ITER è il reattore che deve cercare, con una collaborazione internazionale vastissima, di dare quale indicazione? Cioè, non è la macchina finale, è una macchina intermedia, no? Sì, è una macchina intermedia, è un reattore dimostrativo, sperimentale, che deve dimostrare fondamentalmente che si può ottenere più potenza di quanta viene immessa per scaldare il plasma, ad esempio attraverso il iniettore che stiamo realizzando qui a Padova. Sì. Ecco, quindi l'obiettivo di ITER è quello di ottenere per un'ora una macchina che produca 10 volte più potenza di quanta viene spesa per tenerla in funzionamento. Questo è un punto importante, perché il fatto di riuscire a ottenere più energia di quanto ci se ne mette è un problema vecchio della fusione calda, però qui voi avete un obiettivo di un'ora, cioè un bel po' di tempo. Dopo ITER, che le chiedo velocemente una stima, ordine di grandezza, nessun nero su bianco, ad occhio e croce potrebbe dare dei risultati entro quando? Una data? Allora, si spera che ITER possa entrare in funzione nel 2022. Il vero e proprio traguardo è quello di provarlo appunto con la miscela deuterio-trizio, quindi con la possibilità di produrre grandi quantità di energia. Questa data si situa attorno al 2027-2028. Okay. In quella data noi dovremmo avere la risposta fondamentale se il processo ha una prospettiva di utilizzazione commerciale. Nell'arco quindi di una quindicina d'anni. Dopo ITER, però ITER non è una macchina per come è fatta che può diventare commerciale. Dopo ITER però ci sarebbe un altro passaggio intermedio per la macchina che effettivamente dovrebbe poi suggerire quella finale. Sì, è il prototipo del reattore commerciale, questo gli abbiamo dato la sigla demo. È una macchina che dovrebbe convertire la potenza termica prodotta dalla reazione di fusione in energia elettrica tramite il ciclo a cui accennava lei prima, quindi diciamo un ciclo del tutto convenzionale. Classico vapore. Per produrre in rete una potenza dell'ordine di un gigawatt, cioè equivalente a quella di una centrale nucleare attuale oppure una grossa centrale termica. Questa è l'ultima domanda che le faccio. Verrebbe da pensare che quando avete fatto l'esperimento con ITER e abbiamo un'ora, no? La macchina da studiare sia già quella commerciale. Invece c'è bisogno di un'altra macchina intermedia. Perché? Sì, io credo che per macchina commerciale noi intendiamo una macchina che possa essere costruita con capitali di rischio. Noi riteniamo che dopo che ammesso che ITER sia un successo, come tutti ci auguriamo, ancora non ci siano gli elementi da parte delle aziende, diciamo, certo, delle utilities, per poter investire grossi capitali su una macchina che è ancora a livello sperimentale. Noi ITER significa International Thermonuclear Experimental Reactor. Sì. Ecco, è una macchina che funziona solo per un'ora. Penso indispensabile, pensiamo che sia indispensabile avere un prototipo ancora realizzato con finanziamenti pubblici che dimostri il sistema integrato, una produzione costante di potenza elettrica sulla rete. Quindi rimanendo problemi di ingegneria e problemi tecnologici, però la risposta da dare è quella più relativa al mercato, perché se bisogna mettergli sopra un sacco di soldi bisogna avere qualcosa di molto sicuro. Questa, sì, allora avremo una risposta scientifica da ITER, cioè la fattibilità del processo in sicurezza, senza problemi di instabilità e così via, e poi Demo dovrebbe dare risposta invece in termini economici e di affidabilità, insomma tutti quei parametri che servono ad un utility per poter investire, prima di poter investire capitali in una filiera energetica. Sempre senza nessun impegno, non le chiedo di firmare un contratto, però ad occhio e croce qui andiamo verso il 2040, una roba così? Noi abbiamo sviluppato in Europa una cosiddetta roadmap verso l'energia da fusione, e questa roadmap, che è un esercizio molto serio che abbiamo fatto proprio in preparazione di Horizon 2020, prevede l'entrata in funzione appunto all'inizio della decade 40, il funzionamento, la produzione di grandi quantità di energia nella rete elettrica europea alla metà degli anni 40. Insomma, c'è un po' di tempo ancora, però il progetto è decisamente affascinante. Di fatto, questo lo dico io, delle varie, insomma, soluzioni per la fusione calda, questa che si sta, alla quale si sta lavorando con ITER, vediamo poi come andrà, ma è quella che è rimasta sul tavolo, insomma, sulla quale stanno impegnandosi tutti. C'è coinvolto metà dell'umanità, con i 7 partner che sono l'Europa, l'India, il Giappone, gli Stati Uniti, la Russia e la Corea, e l'80% del prodotto interno lordo mondiale, quindi è una scommessa che stiamo facendo in molti. Se non ce la fate ci arrabbiamo. Sì, anche noi. Grazie. Grazie Agnesotto e buon lavoro. Grazie a me. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Abbiamo già affrontato, Chiara, altre volte quei sistemi per fare monitoraggio di persone che hanno problemi di tipo fisico, patologie, di farlo a distanza, no? Sì, più che altro assistenza, forse avevamo parlato di assistenza, qui in questo caso è un pochino più elaborata la questione. Esatto, hai citato questo caso che è quello di cui parliamo questa sera e che genericamente si può definire ospedale in casa, ma adesso entriamo assolutamente nel merito della cosa. Lo facciamo con Gian Domenico Nollo. Buonasera Nollo. Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori. Lei è ricercatore presso l'Università di Trento in tecnologie avanzate e con appunto questa sua attività e con un team lavorate a un progetto di innovazione e ricerca clinica con ricadute sanitarie. Allora, noi dicevamo appunto qua con Chiara che altre volte noi abbiamo per esempio raccontato sistemi che addirittura attraverso la rete possono monitorare il battito cardiaco, la pressione, vari sistemi di questo genere. Ce n'era uno che era proprio un'intera maglietta, no? Una canottiera piena di sensori. Poteva registrare i parametri della persona e inviarli direttamente ad un database medico. Però qui avete appena fatto un convegno lì a Trento, qui invece si va molto oltre. Ci può dire un po' com'è che si supera di molto questo livello? Il tentativo che abbiamo in qualche modo sintetizzato col convegno Innovando qui a Trento, ma che è ovviamente frutto di un trend internazionale, è quello di superare la misura spot, il semplice inseguire il paziente con una sua singola problematica. spesso di natura cardiovascolare, storicamente, lì si è intervenuti per primi con la telemedicina. Ad oggi si sta cercando di riportare tutto il processo di cura del paziente verso l'utilizzo di queste tecnologie. La parola generale è sanità elettronica o e-health. Ecco, però dentro... qui vuol dire che c'è una stanza della casa nella quale c'è una persona con problemi da ospedalizzazione oggi. Quindi non solo anziani, vogliamo dire, no. Anche giovani che magari si sono rotti una gamba, un'anca. In un modo molto serio, insomma, vuol dire che viene ospedalizzato, cioè quella stanza lì è un sostituto del letto in ospedale. Quello che cerchiamo di fare oggi, di immaginare uno spazio di miglioramento è proprio questo. Ci portiamo a casa una serie di tecnologie che servono per non farsi stare più tempo del necessario in ospedale, per avere a casa il maggior comfort e assistenza e cura possibile. Bene, queste tecnologie però se restano lì da sole, senza una guida e una supervisione attenta professionale, rischiano di essere o poco utili o magari dannose, perché io credo di avere un servizio e non ce l'ho, e questo è un limite, o fuori dalle regole, dalle norme. E non ultimo, non lo vorrei trascurare, magari anche fuori dal controllo economico, no? Perché ho anche un problema di sostenibilità. E infatti come si può mettere insieme tutti questi aspetti, insomma? Allora, un ragionamento che è stato svolto qui al convegno Innovando è stato quello di immaginare alcuni segmenti che però portano proprio a costruire dentro questa cameretta, che in origine era una singola stanza con letto, comodino e finestra, diventa una camera di qualche modo una piccola la corsia di ospedale, dove però il controllo che fa l'infermiera, io faccio sempre questo esempio, l'infermiera la mattina quando entra col termometro, non dà solo il termometro, dà anche un'occhiata generale alla camera, no? Vede se l'eventuale ossigenatore sta funzionando, se la pompa va, se la flebe funziona. Sì, ed è anche una componente psicologica importante per il malato. Una componente anche di conforto. Di A casa come si fa? Allora, almeno in parte a casa abbiamo immaginato che si possa avere un sistema di controllo remoto di tutti questi dispositivi, che quindi non è più solo il controllo del paziente, non ti misuro più solo la pressione e il battito cardiaco, ma se c'è un concentratore di ossigeno nella stanza che deve servire una broncopatia, ecco che io da remoto posso controllare i parametri funzionali di quella macchina. Se c'è una pompa di infusione, da remoto posso sapere se sta funzionando, con che ritmi, eventualmente anche intervenire correttivamente o mandare il tecnico perché c'è qualcosa che non funziona. Cioè c'è una sala di controllo in remoto in ospedale che qualcuno controlla e appunto se ci sono degli allarmi, dei malfunzionamenti, vengono segnalati in tempo reale. Cioè se il malato è collegato a delle apparecchiature costantemente che fanno funzioni sofisticate, anche queste possono essere controllate in remoto. Esatto. Quindi non ho più solo il controllo del paziente, ma il progetto, l'idea su cui si sta lavorando, è che controllo l'insieme del sistema, la camera, tutto il letto, tutto quello che sta intorno a quel paziente. Questo è vero, può funzionare nel giovane, ma possiamo immaginare che vantaggi può portare in una popolazione come la nostra in invecchiamento, in cui le assistenze domiciliari saranno sempre in numero maggiore e a cui vorremmo affidare sempre di più alla medicina del territorio un ruolo di cura, no? Non semplicemente di distribuzione di ricette. E voi avete analizzato che questo metodo è economicamente sostenibile, perché quelle questo che lei ci descrive sono tecnologie insomma piuttosto avanzate, costose credo, però avete capito che comunque conviene rispetto è proprio questo, cioè le tecnologie ci sono già in uso ormai, no? Concentratori, pompe, letti elettrici, elettrocardiografi a domicilio, cioè questo insieme di tecnologie già oggi viene usato, magari non in numeri altissimi, ma già comunque in numeri consistenti. La non sostenibilità del sistema è non sapere quello che stai facendo e non avere un controllo, avere il rischio che una certa tecnologia non viene neanche è data a disposizione di un paziente, ma per vari motivi non è in funzione, non è in uso. Ed è su questo terreno qua dell'efficienza e dell'efficacia dell'utilizzo delle tecnologie che si deve creare la sostenibilità. Cioè, non pensiamo pensiamo che sia necessario tagliare, ma è necessario avere un controllo sistematico di quello che stiamo facendo, un monitoraggio preciso, un'efficienza di sistema. Ecco che allora anche in questo senso la telemedicina può venire incontro. Quindi voi mettete in rete delle apparecchiature che già ci sono, effettuando un controllo, esatto, una supervisione praticabile. L'ingegnere clinico sa dove ha le macchine e in che stato di funzionamento sono. L'infermiera sa se quella macchina sta operando, il medico di medicina generale sa i parametri della macchina e alcuni parametri vitali del paziente. E a quel punto la mamma, il figlio, il nipote che ha cura di questo particolare paziente in questa fase della vita può anche a sua volta avere alcuni parametri di riferimento, la telecamera piuttosto che. Quindi su questa grande nuvola tanti attori potrebbero e possono intervenire per avere informazioni sullo stato di salute, sullo stato di qualità della vita che il paziente sta seguendo. Questo tipo di funzioni però sono tutte lontane invece da quelle altre che per esempio sono la pulitura, il cambio, no, della medicazione al mattino dopo un'operazione. Allora lì si è in ospedale, mentre invece da un certo punto in poi si può andare a casa. Che tipo, se dovesse dirci qualche tipo appunto di terapia, di patologia che in questo modo si può curare bene? Ma guardi, il tentativo è quello di mantenere in ospedale la fase acuta della malattia e la sua terapia immediata, l'evento, l'atto chirurgico. Poi il paziente dovrebbe andare o a centri di cure minori o a casa. Ecco, questo andare a casa non deve essere un abbandono, ma deve essere una continuità di cura. In questa continuità di cura, a vari livelli, post intervento cardiochirurgico avrà bisogno di alcuni parametri cardiorespiratori di controllo, un paziente invece con un più complesso quadro dovrà avere anche parametri magari del peso e così via. Tutti questi parametri devono però essere inseriti in una visione complessiva, in una, come l'aveva chiamata lei prima, in una console di controllo. C'è sicuramente una visione ovviamente immediata, che è quella del paziente, si chiama oggi in assistenza domiciliare integrata, cioè questo paziente complesso che però non ha una complessità da ospedale, ma una complessità che chiede molti interventi anche da parte del medico di medicina generale. Questo paziente qua è sicuramente un paziente elettivo per queste tecniche, ma anche lo scompensato, il diabetico, il post-chirurgico cardiaco e così. Quindi sostanzialmente lei dice sono veramente tante le cose che si possono fare a casa, e con questo tipo di ospedalizzazione avanzata in casa possiamo pensare che i 10 giorni di ospedale invece diventano 4 e 7 si possono trasferire tranquillamente a casa. Assolutamente. Con un alleggerimento della sanità. E dal punto di vista però psicologico, ad esempio, avete pensato in qualche modo ad un'interazione con il paziente che magari chiede, fa delle domande da remoto, va bene, al medico per dire guardi però mi fa male, cosa posso fare, in che posizione posso mettermi? Esattamente questo è il punto. Non deve essere lasciato solo, quindi sì, ormai abbiamo tutti una certa confidenza con le tecnologie, quindi anche le tecnologie di comunicazione verbale o scritta o iconica, perché uno può anche fare video. La faccina, no? Certo, la video. Faccina, gli smile. O sudato o piangente, sì. E già questo è un messaggio chiaro, facile anche dal punto di vista della motorietà, no? Uno deve solo schiacciare un pulsante. Questo è un parametro di feedback che ovviamente deve essere inserito in questo meccanismo di controllo. Certo. Ci può essere la riabilitazione del paziente anche, no? Perché credo che funzioni in modo particolare per quei casi invece in cui la terapia è molto lunga, continua, e allora in questo caso c'è una leggera. Ovviamente dove si cerca di introdurre di più questa tecnologia è proprio qua, dove la quantità e la continuità della cura si protrae. Interventi continui da parte del medico oppure riospedalizzazioni, lì si cerca di lavorare. Però questo è un po' come sempre la punta con cui si vuole introdurre questo processo. Va bene, va bene. Allora buon lavoro e buona ricerca, Nollo. Grazie. Arrivederci Gian Domenico Nollo. Grazie, buon lavoro e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie, arrivederci. Oh, santo cielo, sono rimasti pochi secondi. Pochi secondi per salutare. Siamo passati dalle nevi ai letti di ospedale, ma insomma questa è la scienza. Ma facciamo sempre così qui a Mebius e lo faremo anche la prossima settimana. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao!